Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Di Rosita Celentano e Angelo Vaira. Eccoci qua. Buongiorno. Sempre pronti tutte le domeniche a mezzogiorno. Buongiorno a tutti quanti. Sei posseduto da come si dice, dall'ispettore Clouseau? Io trascorro molto tempo in Francia e allora come dite voi in Italia mi prende, parli tu francese? Prende queste, sì, naturalmente. Ma passiamo alla prossima notizia. Dillo in francese. Ma passiamo alla prossima notizia. Esatto, certo. Allora, intanto vi ricordo il nostro indirizzo, chiedimi se sono felice, @radio24.it, perché noi leggiamo sempre le mail. Difatti commenteremo una mail anche di una nostra ascoltatrice che è rimasta molto colpita da quello che hai detto. Ah sì, tu. Sì, parleremo di cani in giardino, cani in giardino, cani in casa, che cosa è giusto, cosa non è giusto, è giusto tenerli in giardino, che cosa succede al cane in giardino, via dicendo. Esatto, insomma risponderemo anche a lei. Detto ciò, io sono rimasta molto colpita da un annuncio. Sai, sì, che c'è stata tutta quest'estate questa rottura di scatole dei Pokémon? Ma è bellissimo, ma scherzi, i Pokémon. A parte che adesso apro e chiudo una parentesi, Vaira and Brothers si divertono ad andare a fare la caccia al tesoro. Come si chiama quell'altro giochino? Non mi ricordo come si chiama. In realtà io non, cioè, ho seguito una volta lui, no? E la sua fidanzata. Sì, che con la geolocalizzazione tu trovi tipo delle fish, no? Delle cose in giro, poi metti il tuo nome sopra le rinascite. Sì, vabbè. Insomma, una sera eravamo andati a prendere un aperitivo, abbiamo perso tipo non so quanto al lago a cercare di notte con le torce non so che cosa, una bottiglia. Ma come avanti Peter però, eh? Cioè, quello gli dai tanto così subito. Si piglia il braccio. No, ha fatto bene. Mi ha detto la stronzetta giornaliera. Ecco, esatto. Tanto per rimanere fra tuoi concittadini conterranei. Tuttavia. Allora, insomma, questo camminare, questo gran camminare che fanno queste persone che con geolocalizzazione, Pokémon Go e altri programmi, no, vanno sempre in giro. Insomma, a un certo punto a un signore nell'Indiana, negli Stati Uniti, come si chiama, Rosita? Magari Allora, il Munchie Animal Shelter. Ecco, l'iniziativa è Phil Peckinpah, direttore del rifugio, di un rifugio praticamente in Indiana, le ha detto: scusa, ma già che dovete camminare voi così tanto, no? Già che andate sempre in giro, ma perché non venite in rifugio, prendete i cani e li portate fuori al guinzaglio mentre mi mettete a cercare questi, che in questo caso li ha chiamati i cani Pokémon. Ah, li ha chiamati così? Li ha chiamati i cani Pokémon perché in realtà lui è rimasto molto colpito dal fatto che questa app è stata scaricata da oltre 350 milioni di persone, ma in un click, poi, perché è stata una roba velocissima. Tant'è vero che tutti hanno cercato di cavalcare l'onda e di sfruttare la situazione. In Italia mi ricordo che c'era chi faceva propaganda ai supermercati: venite domenica perché ci saranno 10 po'. C'è ancora, ecco, certo. Appunto. Martedì dalle 17 alle 19 nei nostri supermercati metteremo dei Pokémon, quindi venite numerosi a catturarli. No, vabbè. Guarda, da una parte a me inquieta. No, da una parte niente, cioè proprio per me era meglio se non esisteva Pokémon Go. Ecco. No, anche esatto. Perché no, guarda che, cioè, la realtà aumentata, cioè non è la realtà, non è che deve essere aumentata da un cellulare, devi cominciare a vivere e vedi che è perfetta così com'è. Invece, siccome abbiamo sempre fretta, le notifiche, le cose, eccetera, eccetera, adesso abbiamo bisogno della realtà aumentata da un telefonino, pensate. Sì, comunque, a parte questo, c'è qualcosa. In questo caso hanno unito, cioè, da un'iniziativa che a me, per esempio, non piace, però trovare l'aspetto positivo e quindi coinvolgere i ragazzi ad andare a prendere dei cani in un canile per portare a fare una passeggiata è trovare il lato positivo. Anche nelle cose. Beh, forse è sempre meglio per questi cani che stare nei box. Sì, sempre meglio. Ma forse. Ma anzi, lui dice addirittura che hanno dovuto comprare più guinzagli perché l'iniziativa ha avuto molto successo. Meno male. No, il punto è che cosa? Che non è che tu al cane devi stare soltanto vicino fisicamente. Ah, certo. Cioè, ecco, in una passeggiata. Quanta gente va a fare gli incidenti in macchina perché è alla ricerca di Pokémon oppure cade dai ponti, come ho visto su un filmato su YouTube, che uno sta passeggiando su un ponte e cade giù perché è alla ricerca del suo Pokémon. Avanti, stiamo parlando di persone che sono molto avanti. La realtà aumentata. In realtà la realtà diminuisce, aumenta quella sul telefonino, non è che tu aumenti la realtà attorno, tu la cancelli perché hai gli occhi fissi su un chiodi monitor, ne so, per sì, che poi vedi come i pubblicitari usano le parole in modo scorretto, perché ti dicono che attraverso il gioco dei Pokémon è una realtà aumentata, invece è l'esatto contrario. È una realtà diminuita, assolutamente. Esatto. Aumenta quello che tu puoi fare sullo schermo, ma in realtà tu cancelli quello che ti succede attorno, la prova è che appunto fai incidenti, certo, piuttosto che cadi dai ponti. Ora, il problema qual è? Che i cani non hanno bisogno di un palo che li porti a spasso, hanno bisogno di qualcuno che sia lì. Perché forse è vero, non so, magari in un box di quelli là sul cemento è meglio star fuori, no? Piuttosto anche con un palo. Però tu dici, attenzione, col vostro cane non andate. Poi dobbiamo aprire una parentesi sui filippini, uno di questi giorni. Ah, no? Sì, perché sì, beh, lo possiamo allora fare. Andate in giro, guardatevi i filippini che portano in giro i cani e ditemi voi se almeno una volta su due non sono con un cellulare. Sì, scusa, volevo dire, no, non è nulla di indirizzato verso il filippino, perché no, filippino, no, certo. Diciamo. Il collaboratore domestico delle famiglie più benestanti, che si pigliano il cane come gadget, come soprammobile di casa probabilmente, no, ma non guarda, ci interagiscono. Sono convinto che molti di loro li vogliono tanto bene, però hanno le persone che li portano giù per loro. Tutte le volte che noi ci facciamo a guardare questi operatori domestici vanno in gioco, il cane non gliene frega nulla, si ma siedono giusto, ma scusami, su un panettone di cemento, scusami, parlano al telefono. È giusto, tu hai adottato un cane, gli vuoi bene tu, non puoi pretendere che la persona che paghi per fare delle cose si faccia venire fuori il sentimento d'amore per il cane. Beh, no, questo non sono d'accordo, perché scusami, no, già che io ti che pago per fare delle cose, fare le cose che ti dico, no, io, già che le fai, no, me le fai, no, bene. No, assolutamente. Allora, no, che cosa ne pensate di questa cosa? Scriveteci a Chiedimi se sono felice @ radio24.it, soprattutto per dare torto a Rosita, che lei dice sempre che cioè, bello avere sempre ragione, questa volta ha torto. Tu cosa fai? Paghi qualcuno per ricevere in cambio amore? Ma no, e che allora? C'entra? Io sto dicendo un'altra cosa. Se tu, operatore domestico, fai un mestiere e nel mestiere sono comprese una serie di azioni, nel momento in cui la fai, falla con amore, anche se il cane non è tuo, dovrebbe farlo il tuo padrone. Detto ciò, sono d'accordo che un proprietario che prende il cane dovrebbe minimamente preoccuparsi quando va giù a fare la passeggiata, che cacchio di passeggiata fa. E quindi niente, pubblicità, ci vediamo fra poco per continuare a parlare di queste cose. Chiedimi se sono felice, il mondo dalla prospettiva del cane. E sono felicissima di avere ancora con noi qui a Radio 24, assolutamente un'amica, perché oramai siamo diventati amicissimi, ma una persona che sta facendo veramente tanto, che sta dedicando, ha iniziato 10 anni fa a dedicare proprio la sua esistenza, cambiando radicalmente vita, facendo una scelta difficilissima, ma di grande rispetto e onore, ed è Sara Turetta. Ciao Sara. Ciao. Ciao ragazzi. Sara Turetta, che hai fondato Save the Dogs con la S, perché poi magari se no non la trovano, che è questa associazione che quanti cani hai salvato fino a oggi? Mamma mia, ne abbiamo sterilizzati più di 35.000 e ne abbiamo mandati in adozione quasi 6.000 in giro per l'Europa, quindi tanti, tantissimi. Tra l'altro, guarda, ho letto un articolo sulla Zampa che ti riguarda da vicino, la donna che trova a casa i cani randagi di Bucarest. È un articolo molto bello, parla di te con una come con le palle, devo dire, sono d'accordo. Che però, bisogna dire, come ci è stato detto pochi giorni fa, che dire a una donna con le palle è sminuente, perché le palle ce le hanno gli uomini. Li usano a seconda, sì, per cose utili oppure no. Mappa, uno può, secondo invece, la nostra mappa, noi non abbiamo bisogno di fare un complimento. Il complimento è che è una persona tenace. Esatto, persona... No, nel senso che noi non abbiamo bisogno di un attributo degli uomini per sentirci forti, toste e fighe, perché lo siamo già di noi. Tra una l'altro, donna... nel mondo dei diritti per gli animali e di chi lotta per i diritti degli animali, mi spiace, Angelo, dire questa cosa, però noi donne siamo assolutamente prevalenti. Quindi sì. la nostra spinta ad accudire, a proteggere, è sicuramente molto forte. Quindi siamo un po' le protagoniste. Allora, in questo insomma, mondo, io cercherò di farmi valere, così che quando avrò ottenuto dei risultati sarò un uomo con le ovaie. Scemo. No, a onor del vero, Sara. Angelo lo dice sempre, difatti dice sempre che nella sua scuola ovviamente c'è una fortissima percentuale, enorme percentuale di donne, che però adesso anche gli uomini stanno acquisendo quella sensibilità che noi abbiamo innate, allora magari un pochino bisogna fargliela conoscere. È l'uomo il più intelligente degli animali, io dico se no è la donna la più intelligente degli animali. Vabbè, allora, fatto una battuta, però è vero. Sara ha cominciato nel 2001, quindi sono ben 15 anni, quasi 16 ormai. Allora, abbiamo un aggiornamento da dare a chi ci sta ascoltando e riguarda i cuccioli, o meglio il traffico illecito di cuccioli che ogni volta muoiono nei trasporti, muoiono a casa una volta che li abbiamo adottati e noi continuiamo ma non solo, ma vivono dei momenti drammatici. No, ora, siccome il punto è che anche se c'è l'informazione, la gente purtroppo non capisce che è meglio non avere a che fare con queste cose qua, anche perché si fa poi impietosire, no, da questi cagnolini che purtroppo hanno bisogno anche loro, si è pensato di agire a livello politico. Allora Sara ci aiuta a decifrare, a capire un po' come stanno andando le, esatto, cose. Sì, praticamente che cosa è successo? Nei giorni scorsi c'è stata un'iniziativa importantissima al Parlamento europeo a Bruxelles, che è partita da una cordata di associazioni, oltre 60 associazioni per la tutela di cani e gatti in Europa, tra cui Save the Dogs, la mia associazione, e si è organizzato questo evento che fa parte ovviamente di un'azione di lobby che va avanti da anni per chiedere all'Europarlamento, ma soprattutto alla Commissione europea, di agire contro questo traffico di cuccioli. Pensate che ogni mese le stime parlano di 46.000 cani e gatti che vengono spostati da un paese membro all'altro, e sono stime, probabilmente sono sottostimate. Sì. Ora, una gran parte di questi 46.000, scusami Sara, non ho capito, ogni mese o ogni anno? Ogni mese 46.000. Quindi sono più di 500.000 di cani e gatti all'anno, ma sono soprattutto cani che vengono trasferiti, commercializzati tra i vari paesi membri, anche sulla spinta di internet, che purtroppo diventa sempre più il mezzo con cui vendere animali di razza. E il problema è che questo traffico è completamente fuori controllo. Allora, che cosa chiedono le associazioni? Chiedono alla Commissione europea un piano d'azione che veda un impegno alle frontiere, nelle ASL dei vari paesi, nei ministeri dei vari paesi, affinché ci sia una stretta sull'allevamento, che soprattutto nei paesi dell'est Europa è un allevamento fuori controllo. Gli allevatori sono improvvisati, li tengono gli animali in condizioni atroci, infatti, nelle cantine. È quello che di solito viene detto con i cuccioli che vengono dall'est, no? E questa è un po' la piaga di cui si parla da qualche anno. Sappiamo anche Edoardo Stoppa è intervenuto con Striscia diverse volte, le associazioni se ne occupano sempre, noi educatori cinofili diciamo mi raccomando con le adozioni, le fiere del cucciolo mi sembra che anche ne contengano tantissimi, muoiono durante il viaggio, giusto? Esatto, c'è una mortalità altissima. E sono animali spesso malati e non socializzati, con problemi, perché pensate a dei cucciolini che vivono in un gabbione al buio, in cantina o in un sottoscala, che tipo di socializzazione possono avere avuto? Allora, cosa succede? L'Europa finora non ha fatto niente, perché? Perché l'Europa dice il benessere degli animali è competenza degli stati membri, quindi ogni paese deve legiferare. Quindi abbiamo una Germania o una Svezia virtuose che dicono i cuccioli nei negozi non si vendono, non esistono le fiere del cucciolo, non esistono i mercati, ma ci sono paesi come l'Italia, come la Spagna, come la Francia, come la Grecia, dove vai in un negozio e su una spinta emotiva, senza nessuna consapevolezza, si acquista un cucciolo la cui provenienza è per lo più dubbia, no? Certo. Con dei margini di guadagno, tra l'altro, voi questo sicuramente lo sapete, questi cuccioli vengono rivenduti a volte per 80-90 euro al commerciante italiano, che lo rivende a 500-600 euro. Sì, certo. Quindi veramente stiamo parlando di cifre enormi. Allora, noi però a questa affermazione della Commissione europea che dice devono essere gli stati membri, cosa dicono le associazioni? No, alt, questo commercio ha un impatto sulla salute pubblica, perché questi animali possono riportare delle malattie pericolose anche per l'uomo, perché un animale che non è vaccinato contro la rabbia o arriva qui troppo piccolo e non ha tutte le vaccinazioni, che non è stato trattato per l'echinococco, che è un'altra patologia intestinale che è potenzialmente trasmissibile all'uomo, questi animali possono anche reintrodurre delle malattie. Quindi non è vero che non ha un impatto sulla salute pubblica e non è vero che non c'è un aspetto economico, perché si parla di 1,3 miliardi di euro mossi dal commercio e dall'allevamento di cuccioli e di cani di razza Europa. Ma e che cosa si può fare? Cosa dovrebbe succedere perché questo scempio si interrompa? Prima di tutto gli stati membri devono cambiare le regole del gioco. Gli animali non devono essere venduti prima dei 4 mesi di età, devono essere venduti solo da allevatori autorizzati con tutte le licenze e quindi non da allevatori improvvisati, quindi controllati negli standard di benessere degli animali. deve esserci un'anagrafe canina europea nella quale confluiscono le anagrafi dei singoli paesi, e qua c'è una nota da fare, l'anagrafe italiana non funziona ancora bene ed è una cosa scandalosa, le anagrafi regionali ancora non si parlano, si sta parlando di un'anagrafe europea, perché altrimenti vorrei anche, giusto per far capire a casa, che cosa significa quello che ci ha detto Sara adesso. Significa che se un cane si perde in Lombardia, o meglio, tu abiti in Lombardia e vai in vacanza in Piemonte, perde il tuo cane là, quando viene ritrovato, attraverso il microchip non si riesce più a risalire al proprietario del cane, perché è stato registrato in Lombardia e non in Piemonte. Quindi le anagrafe canine delle regioni già non si parlano tra di loro, e diceva Sara, si parla addirittura adesso di un'anagrafe canina europea, che è una cosa che sicuramente verrà realizzata, ma speriamo che l'Italia si faccia trovare pronta all'appuntamento, perché non possiamo andare lì dicendo no, abbiamo due regioni che si parlano e le altre 10-15 non si parlano. Guarda, lì dipenderà tutto dagli interessi e se ci hanno veramente voglia di sistemarla questa cosa, perché questo è un altro degli aspetti per i quali l'Italia sta veramente lontana da quello che è un paese civile. Purtroppo Rosita hai ragione, perché a questo evento la settimana scorsa della EU Dog and Cat Alliance, di cui siamo parte attiva, hanno partecipato 3 o 4 europarlamentari italiani, che è pochissimo, mentre erano tantissimi finlandesi, tedeschi, gli inglesi, ecco. Questo ti fa capire perfettamente in che stato il siamo, il livello morale, livello morale etico, ma infatti rispecchia perfettamente il nostro paese, in cui si va ancora oggi, ci dicono, a votare soltanto dal martedì pomeriggio al mercoledì sera, e tutto il resto della settimana ognuno fa quel cacchio che vuole, sono parlamentari. Pensate che l'Italia è probabilmente uno dei 3 più grandi importatori di cuccioli, ecco, dall'est, figurati. Quindi è un problema che ci tocca da vicino. Sono proprio stronzi nel midollo. E non basta Striscia, non basta l'informazione, la gente continua ad acquistare, quindi bisogna che il Ministero della Salute italiana vieti una volta per tutte la vendita nei negozi, la vendita nei mercati, la vendita sotto i 4 mesi di età, tutte queste attività devono essere tracciabili e trasparenti, e noi ci ostiniamo invece a lasciare che le lobby che guadagnano milioni di euro sulla pelle degli animali la facciano da padrone. Pensate che adesso si parla di ammende minime per chi viene trovato a trafficare animali al di fuori, diciamo, dei limiti di legge. Stiamo parlando di multe ridicole rispetto ai soldi che questi trafficanti fanno. Pensate. Comunque, guarda, grazie Sara, perché adesso cercheremo di portare avanti questa cosa, ovviamente sempre con te che sei lì proprio sul posto e che segui da vicino tutto quanto, per cercare di farci sentire. Adesso attraverso la radio anche la gente dovrebbe capire che se vuole un animale o lo va a prendere al canile, che sarebbe la cosa migliore, oppure vai direttamente da un allevatore. I negozi dovrebbero servire per darti tutto quello che serve per vivere con un cane, il guinzaglio, esatto, e la pettorina e... La mamma deve essere sempre visibile, Rosita, la mamma dei cuccioli, tu devi poterla vedere, devi poter sapere chi è. Quindi questi cuccioli che non hanno un'identità, non va bene che vengano venduti in questo modo, è veramente una piaga. Sì, c'è questo limite dei 4 mesi che, sul quale molti educatori cinofili non sono. No, è la cosa. Allora, se non ci fosse questo problema, sarebbe la cosa corretta. Cioè, dopo 8-9 settimane, il cucciolo è meglio che vada via, perché se tu lo tieni in allevamento, cioè se non è cresciuto in casa, purtroppo impoverisce la sua mente. Ok, quindi effettivamente il limite dei 4 mesi va benissimo, perché così ti garantisce tutta una serie di cose relative a questi cani che vengono appunto dai paesi dell'est, però dall'altra parte devi sperare che l'allevatore sia serio e che faccia socializzare il cucciolo. Angelo, è per questo che gli standard di allevamento devono essere elevati, in modo che il benessere di questi animali sia tutelato. Ma che cosa succede? Questi cuccioli vengono trafficati ben prima dei 3 mesi e mezzo di età che la legislazione impone, e però la differenza tra un cucciolo di 2 mesi e uno di 3 mesi e mezzo è molto difficile da attestare, certo, per un problema dei certo. denti, della dentatura. A 4 mesi invece un cucciolo già ha delle caratteristiche morfologiche che permettono di individuare chiaramente l'età. Quindi ecco, almeno per quanto riguarda gli animali di importazione, questa regola dei 4 mesi dovrebbe essere rispettata. Benissimo, benissimo. Grazie, senti, Sara. Grazie, Sara. Sei come precisissima, sempre precisa, preziosa, e teniamoci in contatto per qualunque cosa, siamo a disposizione. Ragazzi, speriamo ci ascoltino soprattutto. tutti i legislatori e i politici, perché la Commissione europea continua a dire sono i paesi membri dell'Europa che devono chiederci di fare delle cose, non solo le associazioni. Quindi ecco, cercheremo di farci se sentire anche noi. Spendere dei soldi con un buon senso, potete sostenere Save the Dogs cercandolo su internet e facendo una donazione a questo incredibile lavoro di Sara Turetta. Grazie Sara. Ciao Sara, un abbraccio. Grazie. A fra ciao. Poco andiamo in pubblicità. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Ho capito, perché poi c'è questa cosa così. Sì. Abbiamo un ospite speciale. Dico solo che c'è sempre ragione io. Conduttrice, insomma, tra poco ve la presentiamo. Si batte per i diritti degli animali. È un sacco competente su queste cose qua. Allora stavamo discutendo io e qua Rosita. Comunque, allora diciamo. Che io ho ragione. Allora, chiedimi se sono felice, no? Noi per essere felici dobbiamo. Anche appunto, chiedimelo. Sei felice? Insomma. Sei felice? Sei felice? Allora, dicevamo, tante volte ci prendiamo questa licenza, no, di estendere un po' il campo, parlare anche dell'alimentazione umana, perché un proprietario che si interessa all'alimentazione naturalmente poi si interesserà anche all'alimentazione dei propri amici animali. E questa volta abbiamo un argomento particolare da trattare con un ospite speciale. Prego la sigla. Paola. Paola, ci sei. Ladies and gentlemen, Paola Maugeri. Ogni tanto Maugeri. Angelo sembra, sai, i presentatori quelli di una volta dei circhi a tre piste. Signori. Come stai, cara amica bella? Noi abbiamo questo immaginario un po' del passato insieme che ci accomuna in qualche modo. Sto molto bene. Voi come state? Chiedetemi se sono felice. Sei felice? Esatto. Sono molto felice, sì, assolutamente, anche perché se c'è una cosa che ho capito in questi 48 anni di vita è che la felicità è uno stato mentale, quindi... È una scelta. È vero. È uno stato mentale, è una scelta e quindi, come dire, va coccolata... Va nutrita. E va accolta. Beh sì, che poi lo sanno tutti che la felicità è uno stato mentale, no? È una scelta, però nessuno poi la cerca. O cerca di vivere felicemente la sua quotidianità, che poi, per carità, chi è felice non è che è sgombro da dispiaceri, da tensioni, da cose, però li vive con uno stato d'animo completamente diverso. Ma perché nessuno ce l'insegna nella nostra cultura, basata soprattutto sulla sofferenza, sul consumismo. Capisce anche i veri amici quando ti sanno stare accanto nella felicità, e allora questo è molto interessante. Esatto. Ci sarebbe molto da parlare su questo argomento. Allora Paola, recentemente siamo andati io e Rosita a fare una colazione, ci siamo fatti una passeggiata, poi siamo entrati in un negozio fornito delle più belle cose da mangiare. Sì. E c'era lì un estrattore, no? E allora stavo per dire, caspita, l'estrattore costa anche tanto, vediamo un po', ma che ne dici? E allora ci è venuto in mente, ma scusa, abbiamo in casa una persona che ci può aiutare su questa scelta, abbiamo chiamato Paola Maugeri. Che si è specializzata, che hai studiato, che hai letto, che ti insomma, che... E ho detto, chi meglio di Paola poteva darci un suggerimento? Tra l'altro ricordiamo che l'ultimo libro che Paola ha scritto, poi mi confermerai se è l'ultimo, magari ne è uscito qualcun altro, ma non penso. Dunque, l'ultimo libro di Paola è Alla salute, 109 succhi, smoothies e sfizi made in Las Vegas, giusto? Hai detto da Mondadori. È assolutamente l'ultimo, è giustissimo. E apro questa risposta che sto per darvi dicendovi che io ho comprato il mio primo estrattore nel 1996. Mi è arrivato a Catania dall'America, l'ho pagato 4 milioni di lire, più della Panda che possedevo ai tempi. Mazza. E l'ho pagato a rate tipo per 3 anni, quindi questo è il mio grande amore. Ma tu pensi. Ma pensa. Vedi per quando... un certo tipo di alimentazione naturale, quindi quella ancora è una sorta di Cadillac, quell'estrattore è la regina della mia cucina ed è un estrattore meraviglioso che funziona ancora, che funziona meravigliosamente, che all'epoca è stato... No, scusami se ti interrompo, ma all'epoca facevano ancora questi elettrodomestici che potevano durare una vita e tramandarli di padre in figlio, no? Come esatto. Ma certamente, questa è stata un'azienda americana fondata nel 1934 da uno degli esseri umani più intelligenti e sensibili che l'umanità abbia partorito, cioè Norman Walker, che ha creato il primo estrattore, che ha aperto il primo juice bar a Los Angeles nel 1934. Ma pensa a te. La vantezza, che non credo neanche si possa dire in italiano, però avete capito il concetto, di personaggi così. E quindi quello è il mio primo estrattore. Quindi tutti questi anni mi sono sempre interessata, tanto che poi ho fatto anche una mia linea di estrattori, proprio perché queste macchine le conosco molto bene, che in realtà differiscono moltissimo dalla centrifuga, perché la centrifuga è una macchina che costa anche poche decine di centinaia di euro in qualche modo, mentre un estrattore è un bel investimento. La centrifuga spacca la molecola in qualche modo proprio per forza. Invece la cosa meravigliosa dell'estrattore è che l'estrattore schiaccia molto lentamente, 60 giri al minuto, le molecole di frutta e verdure. Allora noi veramente abbiamo un succo vivo che in qualche modo non è stato trasformato dal macchinario. Allora capite bene che c'è una grande differenza. Che il macchinario spacca e poi riscalda, mi sembra, anche di più. Sì, certamente, ovviamente riscalda assolutamente di più, ma questi sono concetti comunque di cui si parla adesso. Ovviamente nel 96, quando l'ho comprato io, queste cose non le sapevo, ma già questo macchinario era una macchina che pressava la frutta, vedi? E qui abbiamo già messo da parte l'obiezione: adesso invece di chiamarla centrifuga la chiamano estrattore, così te la fanno pagare di più. E invece c'entra? Sono due cose come comprare una bicicletta piuttosto che una monopattino, moto. Cioè sono delle cose completamente diverse, non si possono neanche paragonare. A livello di salute, cioè cosa fa meglio, farsi una centrifuga? Perché sai, a volte uno pensa anche che quello che ho pensato anch'io, che fossero una questione di mode, no? È passata adesso la moda della centrifuga. Ma figurati, no, queste non sono mode, vi ripeto, gli estrattori esistono dagli anni 30, ovviamente magari adesso se ne parla di più, ma questo concetto della moda è un concetto che noi assolutamente dobbiamo andare a sgomberare. È moda per chi non approfondisce, non è moda per chi usa il proprio tempo per studiare e approfondire. A livello di salute sicuramente molto meglio un estrattore, perché ovviamente non surriscalda, non spacca la molecola. Però voglio dire, se chi ha una centrifuga a casa, viva Dio che se la tenga, per comprare un estrattore ci vuole anche in qualche modo un'evoluzione di consapevolezza, di presa di coscienza su un certo tipo di alimentazione. Quindi nessuno sta dicendo avete la centrifuga a casa, buttatela, viva Dio, assolutamente no, io sono contro lo spreco, ma se vi evolvete nella conoscenza comprate un estrattore. Ecco, allora c'è della gente che si chiede, no? Ma io perché non mi posso mangiare semplicemente un frutto e devo invece estrarlo? Io so che tu hai tante risposte da questo punto di vista. Ma certo, innanzitutto nessuno di noi mangia 7-8 pesche, 5 kiwi, 2 cespi di... io ho appena comprato meraviglioso delle coste, che questo è il periodo delle diete, nessuno mangia questa quantità. Invece li possiamo estrarre e quindi mangiare sicuramente una maggiore quantità. Inoltre, soprattutto per quanto riguarda le verdure, è interessante, perché nessuno di noi come una capretta mangia 2 cespi di insalata piuttosto che di coste a morsi così. Ovviamente li condiamo, ovviamente mettiamo anche qualcosa per condirli, allora quello cambia totalmente, perché già attiva il processo digestivo. Il succo invece così estratto entra immediatamente in circolo e ti dà una carica, una botta di vitalità e di ingredienti vibranti che non avremmo con l'insalata, capisci? Quindi c'è una grandissima differenza. La differenza risiede anche nella quantità di fibre, che se noi mangiassimo il frutto così intero ci sono tante fibre, per carità, però non possiamo mangiarne così tanto, proprio perché altrimenti ci gonfieremo tantissimo. Questo è ma sai, dipende anche come accoppi ovviamente la varia frutta e varia verdura. Perché non è che non è che uno si può improvvisare a accoppiare le cose così come gli capita, fare esperienza. Ti interrompo, perché in realtà una parte molto bella è anche quella di sperimentare, perché se noi impariamo a conoscere il nostro corpo capiamo poi di poter mettere delle cose, magari alcuni sono più alcuni magari fermento di più piuttosto che meno, però è vero che c'è un criterio nell'accoppiare frutta e verdura. Non è un caso che ci ho scritto un libro anche bello grosso, perché non è un argomentino che risolvi in 10 pagine, non è assolutamente così, quindi questo è anche molto interessante. Però intanto cominciare, perché quello che noi mangiamo in maggioranza è cibo morto, è cibo scatolato, zuccherato, salato, trasformato, industrializzato. Infatti voglio ricordare quantità in un estrattore, come dire, la cosa più naturale che tu possa mangiare. Voglio ricordare quando abbiamo intervistato il professor Birrino, lui ci aveva detto che dovremmo stare attenti a prendere quegli alimenti che hanno subito il meno possibile trasformazioni, processi industriali. Cioè più andiamo all'origine, più riusciamo a mangiarli integri, poco lavorati, e meglio è. Quindi rispecchia questo fedelmente quello che ci sta dicendo Paola. Assolutamente, lui dice anche se ci sono più di 5 ingredienti non comprate nulla, e io condivido, quindi sì. Addirittura il mio ultimo motto di queste settimane è: non mangiate nulla che non sappiate pronunciare, a parte quinoa, quindi perché? A parte quinoa. Scusa, che cosa c'è di non pronunciabile che qualcuno perché si scrive mangia? Quinoa. No, lascia perdere la quinoa. E vabbè, se tu pensi a tutti quanti gli eccipienti che vengono messi all'interno di molto cibo che noi non conosciamo. Ah, ecco, no, non capivo. Tutto quello che conservanti. Ah, certo, certo. Non mangiate niente. Come dice che non Pollan, sì. Perché cioè, se la vostra bisnonna non lo riconosce come cibo... Sì, Berrino dice, per saper fare la spesa basta che provate a immaginarvi vostra nonna quando andava a farla, che cosa prendeva e cosa riconosceva. È assolutamente sì, vero, c'è bisogno cioè. Assolutamente di ritornare alle origini. Negli anni, in questi ultimi 50 anni, vuoi per il consumismo, vuoi per volere sempre di più, vuoi perché l'uomo, secondo me, ha un po' di manie di onnipotenza, quindi deve manipolare, vuole manipolare, pensa di poter migliorare. Vabbè, qualcosa che già c'è perfetto un sistema di per sé. Commerciale molto forte dietro. Voglio ricordare che gli stessi criteri valgono anche per i nostri amici animali, per cui abbiamo avuto anche veterinari che ce l'hanno confermato, anche per loro vale la stessa cosa, cioè più il cibo viene processato a livello industriale e ovviamente più nutriente si porta via, e voglia che poi tu le aggiungi e fai altre robe, insomma, purtroppo non allora è... Per esempio, cani e gatti amano invece i frullati di frutta e verdura, ah, sì. Comunque conservano le fibre, quindi anche un altro metodo, infatti all'interno del libro parlo sia di estratti ma anche di frullati, smoothies come dicono sì, gli americani, sì. Di frutta e verdura, ed è delizioso perché c'è questa tendenza, i cani e i gatti, sono tantissime foto che girano online tra i patiti degli smoothies, e i cani e i gatti li adorano. Che quindi... poi fra l'altro tu hai avuto, hai adesso ancora un gatto, cioè hai avuto cani e gatti longevissimi che vivevano... Vivevano tantissimo? Sì, sono stati tutti cani e gatti che hanno avuto la fortuna di morire a casa loro, che secondo me oggi significa tanto. Fra l'altro. Senti, so che voi sapete che cosa vuol dire. Quindi sì, ma sono sempre stati nutriti con un cibo vegetale fatto in casa, preparato per loro. Ecco, questo volevo capire. Tu gli hai dato... Allora, facciamo così. Se ci aspetti un attimino che ci abbiamo un piccolo break e poi ritorniamo subito con te. Sono Giovanni Minoli, tutti i giorni Mix 24 in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10.30 con Mario Secchi. Vabbè, però io l'avevo detto, E Pietrangelo Buttafuoco. Ecco la risposta a quello che chiedeva Mario prima. I faccia a faccia, le inchieste, dentro notizie, gialli della storia. Poi libri, gli appuntamenti, il cinema, tutti i venerdì con Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Ciao Ale. Ciao Ale. Ciao Ale. E la musica di Franco Schipani. Iniziamo con la Hit Parade. Da quest'anno, oltre agli interventi in diretta, lasciate i vostri commenti, segnalazioni, critiche anche alla nostra segreteria telefonica al numero 02 46 52 41 83. Vi risponderemo. Mix 24, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.30. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. E siamo sempre qui questa domenica autunnale. Adesso stavamo chiacchierando con... A parlare di felicità e salute con Paola Maugeri. Che tra esatto. L'altro, Paola, io volevo dirti che questa copertina di questo tuo libro è bellissima. Bellissima, sì. È bellissima perché ti fa capire la differenza tra un cibo vitale, vivo, vibrante, e un cibo invece che non lo è. Sì. Quindi... Io ci credo moltissimo in tutto questo, insomma, è proprio lo posso testare con mano, e dico sempre: se tu mangi vivo sei vivo. Certo, se tu mangi morto sei morto, va da sé. Sono d'accordissimo con te che sembra un gioco di parole, ma è una verità. E poco fa dicevamo, no, che i cani e gatti adorano i frullati, no, Paola ci diceva questa cosa qua. Rosita ha ricordato che gli animali che sono vissuti con Paola sono campati tanto. Sì, adesso hanno avuto una vita lunghissima, quindi siamo curiosi di sapere come li hai tirati su. Ma guarda, poi quando fondamentalmente io ho avuto questo cambio a 30 anni, ho iniziato a studiare macrobiotica e quindi i miei animali erano ancora relativamente piccoli, ho iniziato proprio a cucinare per loro, e quindi lì è stata una presa di coscienza per tutta la famiglia, quindi i cereali, le verdure e soprattutto i cani sono veramente campati molto e estremamente felicemente. È ovvio, come voi ben sapete, che con il gatto le cose devono andare in maniera diversa, sì, perché ha delle esigenze diverse rispetto al cane, essendo un vero carnivoro. puro, e allora lì tanti anni fa mi sono chiesta se già ci fossero delle alternative, quindi ho trovato delle aziende che facevano un cibo per i gatti con della taurina sintetica e li ho cercati, ho iniziato a farmi mandare appunto il cibo, perché ancora non era così diffusa questa cosa, e mi sono ritrovata per un periodo anche a diffondere volantini assolutamente gratuitamente per questa azienda che non l'ha mai saputo e che lo sa è adesso. È un'attivista, Paola, l'anima Paola, attivista Paola, sì, una combattiva poi. Nei negozi della mia zona, ai tempi abitavo su una miglia a Milano, proprio per dire: ma guardate che ci sono delle alternative, perché la cosa che mi aveva colpito era stato leggere quanto, ed è una cosa che dico sempre durante i miei incontri, durante le mie conferenze, l'incidenza delle malattie degenerative presso gli animali sono aumentate esattamente come quelle per gli uomini. Certo. Questo perché abbiamo stravolto il cibo animale. Certo, anche, certo. Ma tutto, abbiamo stravolto il cibo per tutti, animale, guarda solamente... Lo sapete bene, chissà quante volte l'avete ripetuto, quindi non porto nulla di nuovo all'interno del vostro programma, ma per me è stata una presa di coscienza e da lì, come dire, è cambiato tutto. Infatti Angiolino, che è questo gatto che ormai il mio veterinario chiama Highlander perché ne ha passate di cotte e di tutte, è sempre lì che, come dire... Quanti anni ha Angiolino adesso? A deliziarci, ne ha 18. Fantastico. Wow. Quindi direi molto bene. Senti Paola, come al solito sei stata chiarissima, preziosissima, siamo felici sempre di fare delle chiacchiere con te e nulla, alla prossima. Tu adesso quali sono i tuoi prossimi impegni lavorativi, che cosa stai organizzando? Ma allora, scrivere innanzitutto un libro nuovo, trovandone il tempo lo farò sicuramente, quindi scrivere il libro nuovo, poi tutte le mattine sono in radio a parlare di rock, che poi come sapete è la mia grande passione, e poi il progetto più grande è un bambino che si chiama Timo, che ha solo 9 anni e quindi c'è tutta la vita davanti. Che però ho visto che condivide con te un sacco di belle esperienze, perché poi magari la prossima volta ci parlerai del viaggio che hai fatto tu... di recente in India, che hai portato anche Timo, insomma, io seguendoti sui social ogni tanto ho la fortuna di vedere delle belle immagini con delle belle cose che scrivi sempre tu. Meno male, dai, ci proviamo, e grazie per i complimenti, perché so che sono sentiti. Sì, stra sentiti. Tesoro, grazie mille, un abbraccio grande, a presto. Infatto. Grazie Paola Maugeri. A presto. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Beh, è sempre preziosa Paola, perché non è che io la sostengo perché è un'amica mia, è il contrario, come funziona, come dovrebbe funzionare per tutti. Cioè? Diventa una persona a cui io mi affeziono quando c'è stima, quando vedi che una persona è coerente, che vive una vita cercando di essere coerente il più possibile, non puoi che volerli bene e stimarla. Cerca un grande senso e significato, no? in tutte le cose che fa. No, perché sai, adesso dico una cosa che può sembrare fuori dal contesto animali, ma secondo me è inerente alla vita, alle relazioni. La gente pensa che, sai, una tua amica, allora ne parli, c'è la raccomandazione, ma in realtà la parola raccomandazione una volta non era così negativa, perché tu raccomandavi qualcuno che sapevi che aveva valore in quel determinato lavoro o settore, e quindi facevi un favore sia a chi poteva prenderlo, certo, a collaborare, certo, che a lui, e che tu che facevi bella figura. La raccomandazione fine a se stessa per nepotismo, perché devi far passare qualcuno che sai che non, ecco, è degno di quel ruolo, diventa una cosa negativa. Ti confermo che all'estero oggi la raccomandazione è pratica benemerita, cioè perché viene fatta con altri criteri, anzi tu se tu ometti di segnalare una persona in gamba, purtroppo non stai facendo bene il tuo lavoro, quindi la raccomandazione la devi fare, solo che devi raccomandare chi merita, non chi è tuo amico, fratello, zio, cugino. No, che questa poi, esatto, che non fai, comunque, che alla fine non fai del bene comunque, a nessuno. Io leggevo una notizia che mi ha scioccato abbastanza, sì, devo dire intristito, perché è una delle aziende che io apprezzo molto per quello che fa, ma oggi purtroppo non l'apprezzo più, eviterò anche di comprare. Capito di cosa parlo. Però insomma è una mia cosa, io non penso che comprerò più i prodotti di questa azienda. Stiamo parlando della Garmin, che ha creato un collare d'addestramento che si può comandare dal telefono tramite GPS, con eccetera, la scossa, eccetera, pare, sì, con la corrente. Sì, a destra con la scossa elettrica. Ovviamente i pubblicitari sono stati bravissimi, no? A mettere dentro questa roba qua. Non parlano mai di scossa elettrica, parlano di stimolazione, insomma mi ha stimolazione molto turbato, voglio dire. A casa, anche se pensate in questo momento che la scossa elettrica, che peraltro mi risulta anche vietata dalla legge, quindi io voglio andare a fondo di questa cosa, perché o io non ho capito bene dagli articoli di giornali e loro stimolano in un altro modo, oppure effettivamente si tratta di una scossa elettrica che equivale a maltrattamento. Ma poi scusami, ma la domanda sorge spontanea, ma perché io io devo stimolare un animale, in questo caso un cane, con qualcosa che non sia un stimolarci nella relazione? Eh beh, quando la tua incapacità, tua incapacità di educare qualcuno, di comunicare, vuoi risolverla ti sembra che la punizione sia la soluzione adatta, ecco che cadi in questo genere di cose. Quindi però il collare elettrico è qualcosa che viene tuttora usato, anche se una volta lo era molto di più, anche in campi di addestramento dove si usa la coercizione, quindi sai, i filmati di Striscia ne abbiamo visti, insomma ci sono ancora addestratori che usano il collare elettrico per portare i cani in gara. Oppure adesso, ecco, se il cane scappa e tu vuoi punirlo, oppure se in casa che tocca delle cose che non deve, ecco che la scossa elettrica. Questo è quello che mi è sembrato di capire e voglio approfondire questa cosa qua. Voglio ricordare che se così fosse, effettivamente Garmin ha messo in circolazione un collare elettrico, a parte le associazioni animaliste che mi sembra si stanno muovendo da questo punto di vista, non è necessario. Cioè, se tu vuoi coltivare davvero un rapporto con il tuo cane ed educarlo e farlo essere un cane felice che ti ascolta, che davvero ha un rapporto di collaborazione con te e fa quello che gli dici quando li ascolti, la cosa che a me purtroppo intristisce è il fatto che l'essere umano vuole spesso le cose tutte subito, no? Vuole star bene, basta la pillola, prendiamola così sto bene, ma in realtà tutto si costruisce nel tempo, nella costanza, nel tempo, nella relazione, tutte le cose, cioè il benessere anche fisico di ogni individuo, il rapporto con le persone, il rapporto con un animale. Quando tu sai che io sono stato presidente e fondatore della prima associazione italiana in difesa dei metodi gentili, sì, cadeva questo nel 2000, sì. Quindi noi vi abbiamo vietato, per esempio, per chi volesse aderire a questa associazione, erano soltanto gli istruttori che potevano aderire, mm-hmm, non dovevo usare il collare a strangolo, mm-hmm, per esempio, neanche il collare in ferro, certo, doveva avere una certa norma di comportamento con i proprietari del cane. Ebbene, spesso mi dicevano, beh sì, i metodi gentili effettivamente sono gentili, magari ci metti un po' di più, però sono gentili. Io ho dimostrato sul campo tante volte che con questi metodi qui tu hai dei risultati molto più rapidi. Molto, esatto, più. Cioè, tu metti il cane seduto impiccandolo, dandogli una strattonata, lo metti seduto perché lo forzi, certo, ma quanto tempo passa fino a che quel cane impari che tu gli dici seduto e quello si siede? E qui stiamo parlando di obbedienza, ma l'obbedienza è una piccolissima parte dell'educazione del cane. Insomma, di queste e di altre meraviglie, come per esempio del cane in casa o cane in giardino, ne parleremo nella prossima puntata. Nella prossima puntata. Quindi grazie intanto, buona domenica, chiedimi se sono felice, @radio24.it, buona domenica a tutti da Angelo Vai e Rosita Celentano. Ciao.